Due. Ascolta e ripeti. Ecco fatto. Andiamo. Sbrighiamoci. Dimmi, come si chiama il marito della tua amica? Perché? Raccontami. Sia al lavoro che al circolo non lo sopporta nessuno. Non dirlo, Cristina. Non dirglielo, mi raccomando. Allora, fammi capire, perché è antipatico? Sì, è una buona idea. Andate solo voi due amiche. No, non ti lascio da solo. Non avere paura. Sì, buona. Le vacanze con Giacomo Raimondi, no! Abbi pietà! Non parliamone più. Fermiamoci qui. Guarda, si sta liberando un posto.